Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Esiste un movimento chiamato Movimento della Fede o il Movimento della Parola della Fede, nato in America per opera di un certo William Kenyon, che era massone. E questo movimento, o meglio, le idee eretiche, i concetti eretici di questo movimento si sono diffusi all'interno del movimento carismatico, del movimento pentecostale e di quello carismatico. Allora, questo movimento è un movimento pericolosissimo e che, diciamo, è arrivato pure in Italia. Quindi bisogna prestare molta attenzione, appunto, alle eresie di questo movimento, che, ripeto, si chiama il Movimento della Parola della Fede, abbreviato con Movimento della Fede. Allora, tenete presente questo, che tra gli esponenti di spicco di questo movimento ci sono Kenneth Hagin, che è morto alcuni anni fa, poi Kenneth Copeland, che è ancora in vita e sta facendo, diciamo, la sua opera massonica, Ben Hinn, poi Frederick Price, John Avanzini e altri. Allora, una delle eresie distruttive di questo movimento è quella delle due morti di Gesù. Come qualcuno dirà, ma Gesù non è morto una volta sola? No, per questi eretici Gesù è morto due volte. Sì, avete sentito bene. Per questi eretici Gesù sarebbe morto due volte. La prima volta morì spiritualmente nei nostri peccati e la seconda volta morì fisicamente per i nostri peccati. Questa eresia di perdizione ha creato naturalmente un altro Evangelo. Perché l'obiettivo di costoro è sempre lo stesso, attaccare l'Evangelo dalla grazia del Beato Dio. Quello è sempre l'obiettivo finale. Vi faccio un esempio. Se voi studiate bene il sistema teologico della Chiesa Cattolica Romana, vi accorgerete che l'obiettivo è l'Evangelo, cioè distruggere l'Evangelo. Se voi studiate approfonditamente il mormonismo, cioè la Chiesa dei Santi di Gesù Cristo degli ultimi giorni, che è una setta pericolosissima fondata dal massone Joseph Smith, vi accorgerete che anche lì l'obiettivo è quello di distruggere l'Evangelo della grazia del Beato Dio. Se voi studiate il geovismo, cioè la setta dei testimoni di Geova, troverete anche lì, poi, una volta studiato quel sistema teologico, che, diciamo, l'obiettivo è l'Evangelo, distruggere l'Evangelo. E quando si studiano, appunto, le eresie distruttive dei falsi dottori che, sono presenti in mezzo al movimento pentecostale, si scopre la stessa cosa, che l'obiettivo di costoro è quello di distruggere l'Evangelo. Quindi queste eresie costituiscono un attacco all'Evangelo. Ora, l'Evangelo va predicato, ma va anche difeso. Va anche difeso con, diciamo, strenuamente. E quindi è quello che io mi accingo a fare anche questa sera, alla gloria di Dio, perché questa eresia delle due morti di Gesù va proprio distrutta, annientata, smascherata, confutata nella maniera migliore, affinché i santi si guardino da essa. Costituisce il lievito malvagio che fa lievitare tutta la pasta. E quindi prestate attenzione a questa confutazione. Allora, ho detto che questa eresia praticamente sostiene che Gesù sia morto due volte. La prima volta spiritualmente e la seconda volta fisicamente. Allora, perché secondo costoro, perché vedete, quando si confuta un'eresia bisogna prima esporre l'eresia, perché altrimenti uno che cosa confuta? Che cosa confuta? Tu devi confutare una tesi, che appunto ritieni sbagliata, devi studiare la tesi, se no che confuti, come la confuti la tesi? E allora chiaramente prima bisogna prestare attenzione a quello che dicono questi eretici e poi dopo passare alla confutazione. Allora, perché praticamente Gesù secondo loro è dovuto prima morire spiritualmente? Attenzione, che questi parlano proprio di morte spirituale. Allora, la ragione è perché secondo loro quando Gesù venne sulla terra aveva un corpo immortale. Come sarà immortale il corpo che noi avremo alla risurrezione? Voi sapete infatti che quando appunto il Signore ci risusciterà mediante la sua potenza, noi otterremo un corpo immortale. Ora, loro sostengono che il corpo di Gesù fosse immortale perché Gesù non fu generato da seme d'uomo, ma fu generato dallo Spirito Santo. Guardate che questi sono astuti, sono astuti come il diavolo quando parlano e quando ragionano. Per cui, sapete, quando ci si trova davanti costoro, bisogna prestare attenzione a tutto quello che dicono, a tutto, persino ai sospiri che fanno, per dire, un po' per estremizzare il concetto, perché io studiando i falsi dottori, i falsi profeti, i falsi apostoli, mi sono accorto che sanno come usare le parole, anche parole bibliche, anche concetti biblici, ma sanno come falsarne il significato. E sanno come usarli per cercare di ingannare le anime. Ricordatevi che costoro usano le arti seduttrici dell'errore, usano la frode per cercare di ingannare gli eletti. Contorcono le scritture, adulterano la parola di Dio, falsificano il senso di quello che è scritto, sempre con il solito obiettivo, adescare i figlioli di Dio, trascinarli dietro l'errore, dietro le loro cose storte e perverse che insegnano, istigati dal diavolo, che è bugiardo, padre della menzogna e seduttore di tutto il mondo. Allora, loro cosa dicono? Quindi Gesù, il corpo di Gesù era immortale, quindi poter morire fisicamente aveva prima bisogno di morire spiritualmente. D'altronde loro dicono, che cosa infatti avvenne ad Adamo? Che Adamo, il primo uomo, prima morì subito spiritualmente quando peccò e poi in seguito fisicamente. Ora, questo concetto è biblico. Noi non abbiamo nulla da dire contro questo concetto perché lo sappiamo, no? Nel giorno che tu ne mangerai, gli disse il Signore ad Adamo, cioè del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, per certo tu morrai. Ora, noi sappiamo che in quel giorno lui morì spiritualmente. Poi dopo, naturalmente, andò incontro alla morte fisica. Però guardate questi eretici che cosa fanno. Prendono l'esempio di Adamo per dire, dato che Gesù era vero uomo, anche lui dovette prima morire spiritualmente, come morì Adamo, per poi morire fisicamente. Allora, ma quando è che sarebbe morto spiritualmente Gesù? Ecco, gli eretici ci dicono che avvenne quando si caricò dei nostri peccati, o quando Dio l'ha fatto essere peccato per noi. Sapete che questo lo dice Paolo ai Santi di Corinto. Allora loro dicono che fu in quel momento che il suo corpo divenne mortale e quindi poi successivamente poté morire fisicamente per i nostri peccati. Lo dicono, non poteva morire fisicamente se non moriva spiritualmente. Insomma, sulla croce del Calvario sarebbe morto un Gesù privo di vita, morto spiritualmente. Vedremo appunto che sostenere una cosa del genere è veramente diabolica, assurda. Allora, quindi, dato che per loro Gesù non aveva, quando venne sulla terra, un corpo mortale come il nostro, perché era secondo loro un corpo immortale, lui visse praticamente la quasi totalità della sua vita da essere immortale. Quindi, l'immortale Gesù, l'immortale corpo di Gesù, a un certo punto si sarebbe rivestito, parliamo in questa maniera, per così dire, di mortalità, per poi rivestirsi di nuovo di immortalità quando fu risuscitato. Cioè, capite che cosa hanno creato costoro? Dunque, per questi scellerati, Cristo prima morì nei nostri peccati, perché appunto, o sotto i nostri peccati si può dire, perché nel momento in cui si caricò dei nostri peccati, ecco, Gesù morì spiritualmente secondo costoro. Perché noi eravamo morti nei nostri falli un tempo, quando eravamo senza Dio, senza Cristo, eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, no? Come dice Paolo agli Efesini. Allora lui, dicono gli eretici, doveva diventare quello che noi eravamo. E allora ecco che è diventato mortale come noi. Ed è per questo che lui ha potuto morire sulla croce per i nostri peccati. Ora, uno che non conosce le scritture, sentendo questo ragionamento, dice amen. Diciamo uno appena convertito, magari gli suona un po' strano qualcosa, però tutto sommato dice, beh, Gesù era vero uomo, effettivamente Adamo dovette morire prima spiritualmente e poi fisicamente, allora Gesù per forza come vero uomo doveva anche lui, no? Non essendo stato generato da seme d'uomo, doveva anche lui per forza di cose morire spiritualmente prima di morire fisicamente. Ma questa eresia, questa dottrina è falsa, è un attacco spudorato, sfrontato all'Evangelo della gloria del Beato Dio. E allora, cominciamo con la confutazione. Allora, quindi Gesù, dato che aveva un corpo, secondo questi eretici, immortale, non poteva essere ucciso prima di caricarsi dei nostri peccati, per forza, no? Se era immortale, non vi pare? Perché? Perché il suo corpo sarebbe diventato mortale solamente nel momento in cui si caricò dei nostri peccati. Questo è un punto fondamentale, diciamo, su cui mettere enfasi, per distruggere questa eresia. Allora, dato che per loro, quando Gesù venne sulla terra, aveva un corpo immortale, non poteva essere ucciso. Perché? Perché Gesù un giorno disse queste parole ai suoi discepoli: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Queste parole sono scritte in Matteo. Allora, queste parole che cos'è che fanno capire chiaramente? Che mentre il corpo è mortale, perché può essere ucciso, l'anima è immortale, perché non può essere uccisa. Ecco perché noi parliamo di mortalità del corpo, ma di immortalità dell'anima. È vero che il termine immortalità dell'anima non esiste, l'espressione immortalità dell'anima non esiste nella Bibbia, lo sappiamo benissimo. Questo ce l'ho naturalmente... ce lo dicono gli avventisti del settimo giorno, i testimoni di Gio, tutti quelli che negano, diciamo, la presenza dell'anima nel corpo dell'uomo, ci dicono sempre, ma voi parlate di immortalità dell'anima, ma non c'è nella Bibbia, no, l'espressione immortalità dell'anima, è vero, però c'è scritto, no, c'è il concetto praticamente espresso dell'immortalità dell'anima, perché Gesù ha detto, non possono uccidere l'anima. Ora, se l'anima non può essere uccisa, è evidente che è immortale, eh? Se il corpo può essere ucciso, invece, vuol dire che è immortale, cioè, non è che ci vuole, diciamo, una laurea, per comprendere questo, Allora, naturalmente questi contrastano la verità, per cui devono sempre inventarsi dei ragionamenti, devono fare sempre dei ragionamenti vani, perversi contro la verità. Allora, vedete, allora, se il corpo di Gesù fosse stato, basandoci su queste parole di Gesù, se il corpo di Gesù fosse stato immortale, prima che si caricasse i nostri peccati, il suo corpo non avrebbe potuto essere ucciso. Allora, Gesù avrebbe detto una menzogna ai suoi discepoli. Perché praticamente, oltre all'anima, gli uomini non possono uccidere neppure il corpo. Capite? Allora, Gesù non disse la verità? No, Gesù disse la verità. E come se disse la verità? Ha sempre detto la verità. Non dicono la verità questi eretici, perché questi eretici contrastano la verità. Come gli Annè e gli Ambrè che contrastarono Mosè. Così costoro contrastano la verità. Però, come la stoltezza di quegli uomini fu resa manifesta, così viene resa manifesta davanti a tutti anche la stoltezza di questi eretici. Quindi Gesù, in base alle sue stesse parole, aveva un corpo mortale, che poteva essere ucciso, capite? Infatti, cosa disse Gesù un giorno ai giudei? Perché cercate di uccidermi? Ma se il suo corpo fosse stato immortale, come avrebbe potuto, diciamo, esprimersi in questi termini? O anche, per esempio, disse loro, cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. E anche, cercate di uccidere me, uomo che v'ho detto la verità che ho udito da Dio. Come mai disse loro queste parole a coloro che volevano ucciderlo? Perché evidentemente il suo corpo poteva essere ucciso. E quindi era un corpo uguale al nostro, da questo punto di vista. Ovvio, era senza peccato, perché lui fu generato dallo Spirito Santo, però era mortale come il nostro. Poteva essere ucciso. Vi ricordate un giorno Gesù cosa disse all'inizio del suo ministero ai giudei? Disfate questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Ora, i giudei inizialmente avevano pensato che lui parlasse del Tempio a Gerusalemme, ma Gesù aveva parlato del Tempio del suo corpo. Vedete cosa gli disse? Disfate questo Tempio. Allora poteva essere disfatto. Perché poteva essere disfatto? Perché il suo corpo era mortale, quindi poteva essere ucciso. Ecco perché quando a Nazareth, la città della Galilea in cui Gesù fu allevato, dopo che lui parlò nella sinagoga, voi sapete che lo cacciarono fuori della città, lo menarono fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città, per precipitarlo giù. Ricordate questo episodio importante, Ecco perché è scritto che Gesù, passando in mezzo a loro, se ne andò, perché avevano tentato praticamente di ucciderlo. Poi vi ricordate quando a Gerusalemme i giudei presero delle pietre per tirargliele? Perché lui aveva detto, prima che Abramo fosse nato, io sono. Che cosa c'è scritto? Che Gesù si nascose ed uscì dal Tempio. Allora il suo corpo poteva essere ucciso, quindi era mortale. Al bando le ciance, dunque, di questi eretici. Bisogna durargli la bocca a costoro, fratelli nel Signore. bisogna turargli la bocca. Noi naturalmente siamo chiamati a turargli la bocca. Non gli dobbiamo fare alcun male fisico, naturalmente, nemmeno torcergli un capello del capo, però bisogna turargli la bocca, smascherando veramente, privatamente e pubblicamente queste loro menzogne. Ora, facciamo anche queste considerazioni. Se il corpo di Gesù fosse stato immortale, no? Come quello che noi otterremo alla risurrezione, perché poi dicono questo, non avrebbe potuto invecchiare. È certo, ma il corpo, perché è questo? Perché il corpo che noi poi otterremo alla risurrezione sarà incorruttibile e quindi non invecchierà più. Sarà un corpo che non invecchia, sostanzialmente. Ma noi sappiamo che Gesù invecchiò, egli crebbe in statura. Poi, quando raggiunse circa l'età di 30 anni, ricordate, lasciò la Galilea e si recò al Giordano per farsi battezzare da Giovanni il Battista. Aveva circa 30 anni, quindi gli anni passarono anche per Gesù, e noi sappiamo che il corpo invecchia passando gli anni. Leggevo che alcuni sostengono che il corpo dell'uomo, dell'essere umano, comincia a invecchiare all'età di circa 30 anni. Questo, diciamo, è quello che dicono degli studiosi del corpo umano. Ma comunque sia, una cosa è certa, che Gesù, quando cominciò anch'egli ad insegnare, aveva circa 30 anni. E allora? Come poteva avere un corpo immortale? Come poteva? Poi un'altra cosa. Se il corpo di Gesù fosse stato immortale, avrebbe dovuto essere anche potente. Eh sì, perché? Perché costoro dicono che il corpo di Gesù era immortale come quello che noi otterremo alla risurrezione. Ma quello che noi otterremo alla risurrezione sarà un corpo potente, oltre che incorruttibile. E quindi, alla luce di ciò, Gesù non avrebbe dovuto né piangere e neppure stancarsi. Le cose stanno così, perché noi quando poi risusciteremo non piangeremo più, non ci stancheremo più, Ma Gesù pianse, sì, Gesù pianse. Pianse quando andò a risuscitare Lazzaro, no? il suo amico Lazzaro. C'è scritto infatti al capitolo 11 di Giovanni, versetto 35, Gesù pianse, onde i giudei dicevano, guarda come l'amava. Vedete dunque, come poteva essere quel corpo un corpo potente? Non poteva essere un corpo potente. Diciamo che Gesù aveva un corpo debole. Non era dunque un corpo immortale. Ma poi tenete presente anche che pianse anche su Gerusalemme. Gesù pianse su Gerusalemme. Poi si stancò Gesù. Infatti vi ricordate che è scritto che Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte, no? La fonte di Giacobbe, dove poi incontrò la donna, no? Che noi appunto praticamente conosciamo come la donna samaritana. Al capitolo 4 di Giovanni leggiamo appunto questo incontro che ci fu tra Gesù e questa donna e appunto anche le parole che si scambiarono, naturalmente molto importanti le parole che Gesù disse a quella donna. Ebbene, vedete cosa c'è scritto? Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte, era circa l'ora sesta. una donna samaritana venne ad attingere l'acqua, Gesù le disse dammi da bere e così via. Ebbene, come poteva un corpo immortale stancarsi? Come poteva? È evidente, il corpo di Gesù era mortale. Ma poi c'è un'altra cosa anche da dire, ma se fosse stato immortale il corpo di Gesù come quello che noi otterremo alla resurrezione, sarebbe stato anche glorioso. Sì. Quindi praticamente doveva essere in grado di sparire, no? Davanti agli occhi delle persone e poi, diciamo, riapparire in un altro posto. Come quando dopo risuscitato dai morti, no? Diciamo fu riconosciuto dai due discepoli, no? Da quei due credenti che andavano ad Emmaus, vi ricordate? Dopo che lo riconobbero, quei due discepoli, la scrittura dice egli sparì dinanzi a loro. Sparì dinanzi a loro perché? Perché aveva un corpo glorioso. Un corpo glorioso. Ma questi qui, praticamente, la storia di Gesù non la conoscono. Ecco perché io vi esorto a studiare la storia di Gesù di Nazaret, leggendo, diciamo, accuratamente e meditando gli scritti di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Meditateli. Non vi stancate mai di meditare la storia di Gesù di Nazaret, mai, fratelli, mai, perché gli eretici attaccano Gesù. E quindi è bene che si conosca la storia di Gesù di Nazaret, il Cristo, il figlio di Dio. Ora, noi possiamo dire del figliolo di Dio che era immortale, mentre lui era in cielo, che voi sapete che il figliolo di Dio è disceso dal cielo, nella pienezza dei tempi il Padre lo ha mandato nel mondo. Ebbene, quando lui era in cielo, nella gloria, con il Padre, là, in forma di Dio, era naturalmente immortale, ma sulla terra fu necessario che lui assumesse un corpo mortale da subito, come il nostro. Perché? Per poter distruggere poi, mediante la morte, colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, come dice la scrittura agli ebrei. E liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Ora, io riflettevo, diciamo, su diverse cose che dicono questi eretici e dicevo, ma se fosse come dicono costoro, ma allora Gesù praticamente visse come un essere mortale solo per poche ore. Praticamente, cioè, sarebbe venuto in questo mondo per vivere come un essere mortale solamente per poche ore. Eh sì, il tempo di essere messo in croce, trafitto, diciamo, inchiodato, e poi il tempo di spirare, più o meno. Capite? Ma è qualcosa di così ridicolo, di così assurdo. Poi io vedo proprio delle persone che quando costoro dicono queste scelleratezze, dicono amen, chi batte le mani, chi pensa che ci sia stata una rivelazione divina particolare. È assurdo. Ma oramai, in tanti locali di culto, dal pulpito, i cosiddetti pastori, peraltro riconosciuti dallo Stato, perché hanno il riconoscimento giuridico, loro possono sposare, dicono, possono sposare, pensate un po' voi, si vantano che possono sposare, no? Possono celebrare il matrimonio. Ma noi diciamo ai credenti che veramente si devono sposare, andate al comune, e fatevi sposare dall'addetto, appunto, preposto a celebrare matrimoni, lasciate perdere questi cianciatori, questi ribelli seduttori di menti. Si gloriano di ciò che torna a loro vergogna. Allora, vi stavo dicendo, la gente ormai, quando va nei locali di culto, pensa che il cosiddetto pastore abbia delle rivelazioni divine particolari, uniche direi. Loro hanno la rivelazione della parola, poi quando enunciano queste rivelazioni ti trovi davanti un minestrone di eresie distruttive, tremendo. Parlano di rivelazione della parola, ma quale rivelazione della parola? Costoro non sono guidati dallo spirito della verità, costoro hanno lo spirito della menzogna, hanno uno spirito di menzogna sulla bocca. Come ce l'avevano i falsi profeti nell'antichità? Eh sì, e parlano. E dicono menzogne, e tanti vanno in visibilio, sono entusiasti di queste menzogne, e allora gridano amen, applaudono, poi si alzano in piedi per fare la standing ovation ogni tanto, assurdo, perché sapete in questi locali di culto sembra di essere allo stadio, proprio si sentono proprio anche dei cori da stadio, delle cose veramente, qui ormai le cose stanno precipitando, fratelli del Signore, eppure nonostante ciò il problema sono sempre io, ricordatevi, il problema sono sempre io, non è che il problema sono costoro, no, il problema sono io, perché li smaschero, ovvio, sono il problema per le tenebre, certo per le tenebre sono un grosso problema, comunque Dio mi sostiene, lo ringrazio, pregate per me, continuate a pregare per me affinché veramente possa continuare a smascherare queste opere infruttuose delle tenebre, perché le eresie distruttive sono veramente opere infruttuose delle tenebre. E allora, praticamente dicevo appunto che oggi nei locali di culto questi pastori possono dire qualsiasi cosa, tanto ci sarà sempre qualcuno che gli dirà amen, gloria a Dio. Che sapienza, che intelligenza, che rivelazione! E quindi sentirete quello che dice che Gesù si è suicidato. Sentirete dire a qualcun altro che Gesù non è stato ucciso da nessuno. O che si è fabbricato, quando, mentre faceva il falegname, si è fabbricato la croce sulla quale poi sarebbe stato crocifisso. Ma le cose assurde. E tutti, o quasi tutti, noi sentiamo tanti amen, però chiaramente non voglio esprimere un giudizio ingiusto in base all'apparenza, speriamo veramente che non siano tutti ad avere detto amen a queste falsità, ma che in mezzo a loro diciamo ci sia stato qualcuno, c'era qualcuno quando annunciavano queste eresie che effettivamente non ha detto amen. Speriamo di un giorno di incontrare o di conoscere qualcuno di costoro, se c'erano. Ebbene, allora Gesù praticamente, quando risuscitò, io riflettevo, dicevo, ma allora quando risuscitò Gesù, che cosa avvenne? Avvenne che lui tornò ad avere un corpo come quello che aveva avuto per circa, diciamo, 33 anni. Capite che cosa assurde, che costoro veramente, diciamo, a quali conclusioni assurde poi, no? Portano questi loro ragionamenti. Gesù sostanzialmente sarebbe vissuto da vero uomo solamente per poche ore, ma proprio per poche ore, Eppure queste cose vengono dette, sono così ridicole, assurde, eppure vengono dette, e tanti le accettano, e se qualcuno li confuta queste eresie, sapete, arrivano i soliti avvocati del diavolo, no? Voi sapete che il diavolo è bugiardo, padre della menzogna, però c'ha tanti avvocati difensori praticamente in mezzo alle chiese. Perché li chiamo avvocati del diavolo? Perché praticamente quando il diavolo parla per bocca di questi pastori, praticamente ci sono sempre tanti che difendono appunto le menzogne che il diavolo fa proferire a questi pastori, contro l'Evangelo, contro Gesù, contro lo Spirito Santo, contro Dio. Ecco, sono là subito praticamente a dire amen e poi a difendere quelle menzogne. Stai sempre a cercare il pelo nell'uovo e non ti sta mai bene niente, ma ci abbiamo tutti i nostri difetti e piantala e smettila, stai attento a non parlare contro gli unti di Dio o contro l'unto di Dio, dimenticandosi che appunto solo uno è l'unto di Dio, Gesù di Nazaret. Ricordati, ipocrita, che il tuo pastore non è l'unto di Dio. Il conduttore della comunità di cui tu fai parte non è l'unto di Dio. L'unto di Dio è solo uno, Gesù di Nazaret. Quindi smetti di chiamarlo l'unto di Dio. E allora, vedete, fratelli del Signore, bisogna veramente vigilare perché questi veramente sono molto pericolosi e purtroppo è così, ci hanno tanti difensori e noi abbiamo tanti accusatori che appunto, proprio perché le menzogne hanno tanti che le difendono e le approvano e noi quindi abbiamo tanti che ci accusano falsamente. Poi vabbè, il classico non giudicare, La scrittura dice è vero non giudicate, però dice anche giudicate con giusto giudizio e il giudizio giusto naturalmente lo esprimiamo basandoci sulle scritture e chiaramente una menzogna è tale quando contrasta la verità. Una volta che alla luce delle sacre scritture, quel discorso o quella parola o quell'espressione è dichiarata mendace, bisogna chiamarla menzogna. Ma costoro non vogliono che si dica delle menzogne del loro caro pastore, che siano menzogne. E invece noi lo diciamo con forza e con chiarezza. Chi ha orecchi da udire udrà. Non ci preoccupiamo noi, sappiamo appunto che chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Le pecore del Signore conoscono la voce del pastore, la conoscono. E quando sentono parlare un estraneo, sapete cosa fanno le pecore del Signore? Non prestano attenzione alla voce degli estranei. Allora, un'altra cosa. Se quando Gesù venne sulla terra avesse avuto un corpo come il corpo che avremo alla risurrezione, incorruttibile e immortale, noi chiaramente avremmo dovuto aspettarci che la scrittura dicesse che il corpo che noi otterremo alla risurrezione sarà come il corpo di Gesù quando venne sulla terra, non vi pare? È immortale e incorruttibile. Ma la scrittura non dice questo. Che cosa dice? Dice un'altra cosa. Che il Signore Gesù trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria. E quando è che Gesù ottenne il corpo glorioso? Quando risuscitò dai morti. Diodati, quel versetto di Filippesi 3,21, lo traduce dicendo a ciò che si è reso conforme al suo corpo glorioso. Quindi il nostro corpo sarà conforme al suo corpo glorioso. Non al suo corpo prima che si caricasse dei nostri peccati, perché dovremmo usare questa espressione. No, conforme al suo corpo glorioso, che quindi Gesù ottenne alla risurrezione. Adesso confutiamo questa cosiddetta morte spirituale patita da Gesù, che Gesù avrebbe patito. Allora, costoro dicono che Gesù avrebbe patito questa morte spirituale quando si caricò dei nostri peccati. Quindi Gesù sarebbe, secondo loro, morto spiritualmente. come morì spiritualmente Adamo, quando trasgredì quel comandamento di Dio che prima vi ho citato. E per loro questa morte spirituale Gesù l'ha dovuta patire per poi patire la morte fisica per i nostri peccati. Ma costoro commettono un grandissimo errore, ma proprio grandissimo. Perché? Perché Adamo morì perché disubbidì ad un preciso comandamento che gli aveva dato Dio. Questo, fratelli, lo dovete sempre tenere a mente. Adamo trasgredì, violò il comandamento che Dio gli aveva dato. Cosa gli aveva detto il Dio? Ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare. Perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo, morrai. Ora, noi sappiamo che il peccato è entrato nel mondo proprio tramite il primo uomo. Allora, che cosa c'è scritto? Che il salario, nella Bibbia c'è scritto, Paolo dice ai Santi di Roma, che il salario del peccato è la morte. Giacomo dice nella sua epistola che il peccato quando è compiuto produce la morte. Allora, noi sappiamo che cosa avviene quando l'uomo pecca. Allora, che cosa avvenne quando quindi Adamo peccò? Il peccato produsse la morte. Fu ripagato con la morte. Ed effettivamente egli morì. Ma attenzione. Gesù non poté morire spiritualmente perché non commise alcun peccato. Gesù non conobbe peccato. Fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare. Quindi il suo caricarsi dei nostri peccati non implicò alcuna morte spirituale. Cioè, sostanzialmente, quel caricarsi dei nostri peccati non è che produsse in Gesù una morte spirituale, nella maniera più assoluta. Lui rimase anche sulla croce la vita. Vi ricordate cosa disse Gesù? Io sono la via, la verità e la vita. Non ce lo dimentichiamo, che Gesù disse anche di essere la vita. Allora, lui rimase la vita anche quando si caricò dei nostri peccati. Altrimenti avrebbe cessato di essere la vita sulla croce. Ma vi rendete conto? Anche se pur per breve tempo, ma Gesù avrebbe cessato di essere la vita. Quindi, lui continuò ad essere la vita. Infatti, poi Pietro, cos'è che dirà ai giudei? Uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, perché noi siamo testimoni. Allora fatemi capire. Ma se Gesù, quando si caricò dei nostri peccati, morì spiritualmente, ma come poteva essere il principe della vita? Non avrebbe potuto più essere il principe della vita. Era morto spiritualmente. E invece Pietro cosa dice? Che era il principe della vita. Uccideste il principe della vita. Quindi quando fu ucciso Gesù era già, diciamo, carico dei nostri peccati. Come lo chiama Pietro? Il principe della vita. Quindi non poteva essere morto spiritualmente. Al bando le ciance di questi diavoli. Perché veramente costoro, veramente sono dei malvagi. Dei malvagi che attaccano la morte espiatoria di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E in questa maniera attaccano l'Evangelo. Quindi, vedete, se Gesù fosse morto spiritualmente, anche solo per poche ore, sarebbe caduta a terra questa parola di Gesù, perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figliolo ad aver vita in se stesso. Infatti Gesù era la vita. Quindi, praticamente noi dovremmo dire che Gesù non aveva vita in se stesso quando fu ucciso. Ma se non aveva vita in se stesso, come poteva espiare i nostri peccati? Non avrebbe potuto? Ecco perché condanniamo questa eresia. Perché se Gesù fosse morto spiritualmente, non avrebbe potuto morire per i nostri peccati. È proprio il contrario di quello che dicono loro. Gesù non poteva morire spiritualmente perché altrimenti non avrebbe potuto morire fisicamente per i nostri peccati. Vedete? È un attacco sfrontato di Satana questo, fratelli nel Signore. Non lo sottovalutate. Guardate che in Italia ci sono coloro che sostengono questa eresia all'interno del movimento pentecostale. Ci sono. Allora, è evidente che costoro attaccano l'Evangelo. Attaccano l'Evangelo perché praticamente creano due morti. Hanno creato due morti. Ma la scrittura parla di una morte sola patita da Gesù. Una morte sola. Non si parla di due morti. Ma dove sta scritto mai? Dove sta scritto mai che Gesù morì due volte? Ma ci rendiamo conto? Si sono inventati, hanno aggiunto un'altra morte, alla morte veramente di cui parla la sacra scrittura. Ma veramente sconcertante questa cosa. Chi ha fatto questo? Un nemico, anzi il nemico. Chi ha introdotto questa eresia veramente in mezzo alle chiese? Il nemico, cioè il diavolo. Dice così la scrittura: infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori, sto leggendo dalla lettera agli ebrei, ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno, come gli altri sommi sacerdoti, d'offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché questo egli ha fatto una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. Quindi si parla sì di un sacrificio, si parla di una morte, ma di un sacrificio unico, di una morte unica, una morte avvenuta una volta per sempre. Ma che vanno cianciando questi bugiardi? Che vanno cianciando questi bugiardi? Io sono indignato, fratelli del Signore, sono fortemente indignato perché noto veramente tanta malvagità. Tanta veramente malvagità in seno alle chiese, tanta stoltezza, tanta corruzione. La scrittura parla chiaro e invece costoro si inventano sempre qualcosa. Non gli sta bene quello che c'è scritto. Dice Paolo ai Santi di Roma, al capitolo 6, versetto 10, poiché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre. E allora? Una volta per sempre. Eppure questi qua si sono inventati un'altra morte. Ma allora, che cos'è praticamente, che cosa dicono? Che oltre, perché poi naturalmente essendosi inventati una morte spirituale, si sono inventati pure anche la risurrezione spirituale. Sì, perché praticamente Gesù avrebbe, diciamo, sperimentato anche una risurrezione spirituale. Cioè, cosa dicono costoro? Che quando Gesù morì fisicamente, la sua anima andò all'inferno e là soffrì la nostra punizione che dovevamo patire. Ma questo non è vero, fratelli del Signore. Non è vero. Gesù intanto non morì mai spiritualmente. Ma sebbene la sua anima andò nell'Hades, non è che Gesù andò nell'Hades per soffrire tormenti indicibili nell'Hades per noi. Questo non sta assolutamente scritto. Lui andò nell'Hades non per espiare i nostri peccati, come dicono costoro, perché costoro dicono questo, ma per predicare l'Evangelo ai morti, predicazione dell'Evangelo ai morti, di cui appunto parla Pietro nella sua prima epistola. Dunque, questa praticamente eresia distruttiva delle due morti, come avete potuto capire, sovverte l'Evangelo. Ora, noi sappiamo che l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti. Ora, è evidente che costoro in questa maniera attaccano proprio l'opera compiuta da Cristo, l'opera di redenzione. Perché per loro praticamente, state attenti a quello che dicono, l'opera redentrice compiuta da Gesù Cristo non fu realizzata tramite la sua morte fisica, perché questa fu solo l'inizio della sua opera redentrice. Infatti loro dicono che ciò che Cristo operò nella sua sostituzione fu compiuto nel suo spirito. Quindi fu il suo spirito che fu fatto peccato, fu il suo spirito che soffrì i tormenti del giudizio per conto dell'umanità, fu il suo spirito che fu dichiarato giusto e fu la resurrezione del suo spirito che ha dato all'umanità la sua redenzione. Quindi la vera opera di redenzione compiuta da Gesù per questi eretici non è costituita dalla sua morte fisica sulla croce e dalla sua resurrezione corporale avvenuta il terzo giorno, ma da una cosiddetta morte spirituale e da una altrettanta cosiddetta resurrezione spirituale. Allora voi direte, ma allora il sangue di Gesù? Beh, loro praticamente sostengono, gli eretici, che il sangue che Cristo sparse alla sua morte non ha il potere di espiare i peccati di nessuno, né di salvare nessuno. Perché è la sua cosiddetta morte spirituale, la sua sofferenza nell'Ades che contano. E già, rifletteteci. Cioè, usando la loro logica perversa, per forza, finisce con l'essere così la cosa. Quindi il primato ce l'ha la sua morte spirituale, non più la sua morte fisica, perché Gesù doveva andare a soffrire all'inferno per noi. Là loro dicono che i demoni lo torturarono oltre qualsiasi cosa chiunque abbia mai concepito, per 3 giorni egli soffrì ogni cosa che c'è da soffrire. Usano queste espressioni, sapete? Gesù andò all'inferno per liberare l'umanità dalla punizione dell'alto tradimento di Adamo. Vedete? Quindi, che cosa praticamente dicono loro? Che Gesù nacque di nuovo. E già, perché nacque di nuovo? Perché morì spiritualmente e poi risuscitò. Capite dunque cosa si sono inventati questi? La nuova nascita di Gesù. E poi dicono, ma d'altronde se Gesù è nato di nuovo, anche noi dobbiamo nascere di nuovo. Avete capito? Hanno sovvertito tutto. Hanno sovvertito l'Evangelo. Hanno prodotto un altro Evangelo. E guardate che ci sono affermazioni proprio che fanno questi eretici che veramente confermano che proprio si tratta di un altro Evangelo il loro. Praticamente loro dicono, arrivano a dire anche, ci sono predicatori di questo movimento, che arrivano a dire che Gesù, quando Gesù morì spiritualmente ebbe luogo in lui una trasformazione interna nella sua natura che diventò una natura satanica. Per cui Gesù sulla croce diventò una nuova creazione satanica, assumendo la natura di Satana. E quando venne fuori dall'Ades, alla sua risurrezione, era un uomo nato di nuovo. Avete capito dunque? Qui si tratta di bestemmie che costoro proferiscono contro il nostro Signore Gesù. Quindi Gesù per costoro avrebbe sperimentato la nuova nascita. Ma poi naturalmente che cosa arrivano a dire? Che arrivano a dire pure questo, che Gesù per redimerci, badate bene che il prezzo del riscatto che secondo costoro Gesù ha pagato è costituito dalla sua morte spirituale e non dal suo prezioso sangue che versò alla croce del Calvario quando morì. E poi c'è un'altra cosa, che il prezzo l'ha pagato a Satana e non a Dio. Invece la Sacra Scrittura afferma che il prezzo del riscatto Gesù l'ha pagato a Dio. Paolo dice ai Romani: Cristo vi ha amati, ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio qual profumo d'odor soave. Ma c'era, capite costoro come hanno adulterato la parola del Signore, hanno falsato il senso di quello che è scritto? Gesù diede se stesso quel prezzo di riscatto per tutti, ma questo prezzo l'ha pagato a Dio. Infatti, vi ricordate quel versetto che c'è nei Salmi? Che dice: nessuno però può in alcun modo redimere il fratello né dare a Dio il prezzo del riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e farà sempre e farà mai sempre difetto. Questo è scritto nel Salmo 49. Ebbene, queste parole confermano appunto che il prezzo del riscatto, Gesù lo pagò a Dio, perché lui sì che lo poté pagare. Era l'unigenito venuto da presso al Padre. Ma quando è che lo pagò Gesù questo prezzo, il prezzo diciamo del riscatto? Quando diventò maledizione per noi. Sì, perché è scritto che Gesù diventò maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chiunque pesa il legno. Ricordatevi questo, è molto importante, scritto ai Galati. Quindi Gesù, diventando maledizione per noi sulla croce, poté liberarci dalla maledizione della legge, perché è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Quindi fu necessario che Gesù fosse appiccato al legno, non è un palo, non era un palo, era appunto la croce. Quindi questo avvenne quando lui morì per i nostri peccati sulla croce del Calvario, no? Che lui appunto diventò maledizione per noi, e in questa maniera ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Quindi fu mediante la sua morte, ricordatevelo sempre questo, fratelli, che Gesù distrusse, la sua morte fisica, distrusse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. E fu sempre per mezzo della croce che Cristo ha trionfato sui principati, sulle potestà, facendone un pubblico spettacolo, non mediante una morte spirituale o una risurrezione spirituale, come dicono appunto gli eretici. Quindi state attenti, fratelli, perché questa eresia è veramente perniciosa, è veramente pericolosa, perché proprio attacca l'Evangelo. Ora, siccome che l'Evangelo è la parola della verità, l'Evangelo è l'Evangelo della nostra salvazione, noi dobbiamo, fratelli, vigilare, perché coloro che attaccano l'Evangelo poi ne creano un altro. E ricordatevi che accettando un altro Evangelo si va in perdizione, perché l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma giusto vivrà per fede, è uno solo, oltre a questo Evangelo non c'è un altro Evangelo, per cui se tu, fratello, abbandoni, rigetti l'Evangelo annunciato da Paolo per abbracciare un altro Evangelo, tu andrai in perdizione. Ricordalo questo. Ecco perché devi veramente serbare la fede nell'Evangelo che annunziavano gli Apostoli. Quindi, ancora una volta, abbiamo appurato che l'obiettivo degli eretici è sempre quello: cercare di sedurre i santi dell'Altissimo, i discepoli di Gesù Cristo, per farli scadere dalla grazia, perché chi naturalmente poi rigetta l'Evangelo di Cristo scade dalla grazia, perché rinunzia a Cristo. Quindi attenzione a questa eresia delle due morti di Gesù, perché praticamente produce un altro Evangelo che non è in grado di salvare. Vegliate, pregate, e non vi fate sedurre da alcuno di questi eretici. Diffondete la voce, nel senso, fate sapere a più credenti possibili, appunto, che viene insegnata questa eresia di perdizione e naturalmente avvertiteli del pericolo gravissimo che costituisce questa eresia. Fratelli, siate forti, state saldi nella fede, perseverate nella grazia di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.